io non ho giampatere, ma era per camarie. Già canta con pretta giù ma volo se, per il suo puttar vai vai, già non sape alle tagai, non devo la mamma di sabacalai. Rame rame, marica ta un baranza, rame rame sio. Rame rame, baranza la doy en bada la mani se. Sampai alet agai, nanti pula mama bisa bakal.